In scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena è quella di una grande attrice e attivista dei diritti delle donne. A Chicago nel 1968, appartiene a una delle più famose famiglie di attori statunitensi ed esordisce sul grande schermo nel 1987, ma diventa popolare negli anni 90 con film come Una vita al massimo, Ed Wood, Strade perdute, Al di là della vita e Stigmate. Tra il 2005 e il 2011 è la protagonista della serie televisiva Medium, dove interpreta il ruolo della sensitiva Alison Dubois. Nel 2013 entra nel cast della serie TV Boardwalk Empire, nel 2015 in CSI Cyber. Nello stesso anno esce Boyhood, il film girato nell'arco di 12 anni. Per questa pellicola vince il BAFTA, il Satellite Award, l'Independent Spirit Award, il Golden Globe e l'Oscar. Memorabile il suo discorso di ringraziamento per l'Academy Award. And the Oscar goes to Patricia Arquette, Boyhood. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. Tutte le donne che hanno avuto un figlio, a tutte le cittadine e le contribuenti di questa nazione. Abbiamo combattuto per i diritti di tutti gli altri, adesso è ora di ottenere la parità di retribuzione una volta per tutte e la parità di diritti per tutte le donne negli Stati Uniti. A ogni donna che ha avuto un figlio, a ogni contribuente cittadino di questa nazione, abbiamo lottato per l'uguaglianza dei diritti di tutti. Ora tocca a noi avere uguali compensi una volta per tutte, dice ricevendo la statuetta. Nel luglio 2015 è ospite al Taormina Film Fest, dove riceve il premio speciale Bulgari Best Actress of the Year e tiene una Tao Class, una masterclass per i giovani appassionati di cinema. E proprio a Taormina è tornata a raccontarci di quel discorso durante la notte degli Oscar e della discriminazione nei confronti delle donne a Hollywood. E non solo, lei è Patricia Arquette. This is the way that it's been. I've certainly had to turn down jobs myself because of inappropriate things they would never ask a man. È così che vanno le cose. Io per prima ho dovuto rifiutare dei lavori perché mi chiedevano cose inappropriate, cose che non avrebbero mai chiesto a un uomo. Nella cerimonia degli Oscar, però, non stavo parlando in particolare del mestiere dell'attrice. Io mi sento molto fortunata perché molte attrici non riescono nemmeno a mantenersi facendo questo lavoro. There is this bias in Hollywood. It is terrible in Hollywood. Certo, esiste questo pregiudizio a Hollywood. È una cosa terribile. Ho cercato di cambiare le cose a modo mio. Ma agli Academy Awards stavo parlando soprattutto dei milioni e milioni di donne che non vengono pagate allo stesso modo di uomini bianchi che facciano lo stesso lavoro. In America abbiamo 66 milioni di donne e bambini che vivono in povertà. 33 milioni non sarebbero in questa condizione se guadagnassero il dollaro che meritano. Invece le donne afroamericane per ogni dollaro di un uomo guadagnano 64 centesimi, le donne latinoamericane 44 centesimi. They're having to take second and third jobs. Devono avere un secondo e un terzo lavoro per mantenere i loro figli. Ci sono milioni di madri single che non riescono a vedere i loro figli dopo la scuola. Questi bambini non andranno al college, potrebbero finire in prigione. Tutto questo succede solo perché le madri, le donne, non guadagnano come gli uomini. Le cose potrebbero cambiare se una donna diventasse presidente degli Stati Uniti. Well, I think it depends on the candidate. Credo che dipenda dal candidato. Non so se Hillary Clinton riuscirà a vincere, perché c'è molta ostilità nei confronti dei Clinton. Non so esattamente perché. Credo che prima o poi avremo una donna alla Casa Bianca. Non so se l'anno prossimo, ma accadrà. Penso che le cose siano cambiate drasticamente. Non viviamo più in un mondo di famiglie nucleari. Più di metà delle famiglie hanno subito dei divorzi. Questa conversazione sulle donne, sul movimento femminile, si basa sul fatto che dobbiamo capire che il femminismo non equivale a odiare gli uomini. Femminismo è credere che le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini. Women should have the same equal rights as men. That's what it is. Do you still love Dad? I still love your father. But that doesn't mean it was healthy for us to stay together. What if after we move, he's trying to find us and he can't? Well, that won't be a problem. He can call Grandma and she'll tell him, or he can call information. We won't be hard to find. Is he still in Alaska? No, that's what your uncle says. Probably taming polar bears or something. Yeah, well, I hope they're taming him. Il suo discorso all'Academy è stata ispirata dal ruolo della madre in Boyhood? Well, definitely the reason that I gave that speech was because of that character. Sicuramente la ragione per cui ho fatto quel discorso è proprio perché ho interpretato quel personaggio. Because I thought how different this woman's life would have been if she'd made her full dollar and didn't have to keep. Ho pensato a quanto sarebbe stata diversa la vita di quella donna se avesse appunto guadagnato quel famoso dollaro intero e non avesse dovuto trasferirsi col bambino di casa in casa, dovendo tornare a studiare, affidandolo tutto il giorno a babysitter, essendo costretta a prendersi cura di tutti. So that was a message for the millions of women that are living like that. È un messaggio a quei milioni di donne costrette a vivere così. Mia madre era un attivista per i diritti umani. Ci ha cresciuto per essere attivisti e credo che per essere un buon attore devi interessarti agli esseri umani. And you can't just play some, you know, glamorous, or you can, but it's pretty boring. Non puoi voler solo la parte di glamour, di benessere. Certo, puoi farlo, ma è tremendamente noioso. Se vuoi fare un buon lavoro ed entrare in empatia col pubblico, devi essere capace di capire le persone e la condizione umana. You want to be able to understand people. And the human condition. Where have you been all day? Your mom called. You didn't go to work. I sold my car. You did? Yep. How much did you get for your car? $800. Are you kidding me? No. You spent $450 on this? It lists for $700. Do you know how far that money could go? For medicine and doctor bills, diaper bills? We need that money for the baby. It's your baby. Tell me where you've been. Don't go! Get out! Go and don't come back! Lei racconta che per costruire una scena si ispira ad atmosfere, si ispira a colori. Come funziona? Come costruisce un personaggio? Well, For me, with different parts, sometimes I approach them differently. Per quanto mi riguarda, con ruoli diversi o approcci differenti. Una delle cose che amo del mestiere dell'attore è il fatto che sia una cosa viva nel momento in cui la si fa, attraverso l'interazione insieme agli altri attori e con quello che fanno. Ma amo anche il fatto che il modo in cui ti avvicini alla parte sia diverso da ruolo a ruolo. I'll experiment with different parts. I don't have one way that I approach parts. Sperimento sempre con i diversi personaggi. Non ho un modo solo di approcciare una parte. Posso prendere un personaggio e affrontarlo attraverso un archetipo, la corona, la vergine, il cacciatore, oppure giocare con l'arco drammatico all'interno della storia e giocare con i vari colori all'interno di una scena. Il rosso che per me è la rabbia, il blu la freddezza o la tristezza, il giallo... Insomma, faccio un acquerello della scena e poi passo a un'altra scena, a un altro progetto. Mi piace affrontare i ruoli in tanti modi diversi. Then I'll make another one of the next scene and then the whole project. I just like to approach it in different kinds of ways. Hello? Mrs. Dubois. This is Nurse Dunbar down at Central Middle School. I've got Ariel here and she's telling me she's feeling pretty ill. What was I going to do, Joe? She obviously didn't want to be there. She was obviously scared out of her mind. So I told the nurse I'd be there in like 45 minutes. I don't know. It's like 12:30 now. I just figured I'd try to rush her home and get... Come fa Patricia Arquette a conciliare cinema e grande televisione? It sort of balances itself because in un certo senso trovano un equilibrio da soli. And there's no movies you like and suddenly a TV show comes to you and you're interested in it. A volte non stai lavorando, non ci sono film che ti interessino e di colpo arriva una serie televisiva che ti piace molto. I am a big believer in God and I'm a big believer in... Credo molto in Dio, nelle opportunità e nel fatto che io possa fare qualcosa di buono o imparare qualcosa di importante, qualsiasi sia il progetto a cui mi sto applicando. Important from any project that I'm working on. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante e ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Ti aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Voci in scena. Nella seconda parte le nostre voci in scena sono tre. Sono tre tra gli attori più amati soprattutto dal pubblico femminile. Nicholas è nato nel 1981 da padre greco e madre romana, esordisce nel 2002 e si afferma nel 2006 con Notte prima degli esami, diretto da Fausto Brizzi. Da lì gira un film dietro l'altro, tanti campioni d'incasso. Matteo è nato nel 1981 a Roma, comincia lavorando a teatro e come comparsa al cinema, ma diventa molto popolare nel 2006 grazie alla serie TV di Canale 5 I Cesaroni. È anche cantante e conduttore televisivo. Primo è nato a Roma nel 1983, è figlio d'arte e inizia a lavorare fin da ragazzino. I suoi primi successi, le serie TV Orgoglio e Grandi Domani e il film Melissa P. Tre attori di successo che al Taormina Film Fest hanno presentato la loro casa di produzione per il web, Drive Production. A caccia di idee e giovani talenti, Nicholas Vaporidis, Matteo Branciamore e Primo Reggiani. Decidiamo di unirci, di diventare più forti. No, abbiamo scelto di costituire questo drive per poter realizzare dei sogni, i nostri e anche di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di proporre progetti con la massima umiltà con i nostri piccoli mezzi, che però i miei piccoli insieme ai suoi piccoli insieme ai suoi piccoli forse riusciamo ad arrivare a dei mezzi importanti. Meno che 35 anni, molto meno di 35 anni, che però già pensano e guardano ai ventenni come se fossero di fatto probabilmente lo sono, una generazione molto diversa da quella che le ha precedute. Lo sono, siamo diversi perché abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni un'accelerazione tecnologica di costume spaventosa, mostruosa. Siamo passati dai telefonini quando avevamo 17 anni noi, il Motorola 8007 che era la cabina del telefono, a un sistema di mondo dove la gente vive dentro il web, quindi con un modo anche di percepire la vita reale completamente diversa. Il web può essere interpretato anche in modo diverso. Questa è la nostra idea, che è quella di dire: ok, in altri paesi sul web non si fa solo social come facciamo in Italia, ma si fa anche entertainment. E se uno spostasse il punto di vista e lo guardasse come un'opportunità, potrebbe vedere nel web qualcosa che a noi che facciamo entertainment ci dà una possibilità in più, cioè quella di bypassare tutto un sistema consolidato ormai pachidermico, lento, che è quello del cinema e della TV, per fare contenuti più liberi, più veloci, osare di più, creare una piccola breccia in un sistema dove gli interlocutori, i grandi produttori non credono che si possano realizzare, e noi invece pensiamo di sì, e quindi dare l'opportunità ai ragazzi di 20 anni che hanno talento ma non hanno esperienza di non bruciarsi, di non sprecare le energie, ma di provare a favorirli con l'esperienza che noi abbiamo accumulato in questi anni e dare loro un apporto economico, un apporto esperienziale, un apporto tecnico con figure professionali che noi conosciamo perché ci abbiamo lavorato, e quindi mettere insieme, unendo come minimo che comune denominatore, la passione che tutti abbiamo per questo mestiere, e fare quello che facevamo quando eravamo in accademia: uscivamo e giravamo contenuti, solo che i contenuti prima erano cortometraggi che andavano in giro per festival e li vedevano, se eravamo fortunati, 500.000 persone. Oggi quei contenuti, prodotti originali, possono avere un bacino di utenza di milioni e milioni di persone. Piove ne è un esempio, il primo contenuto di una serie che abbiamo già prodotto e che stiamo mettendo online, che fa visualizzazioni pari a 1 milione ogni video. Piove. Conta la bellezza per una ragazza quasi MILF come te? Come, scusa? Ma davvero mi hai fatto sta domanda? Stai scherzando, spero. Ma è serio? Tu sai cosa significa MILF? Madre che mi farei. Sono madre io? No. Era la seconda parte. Tu e Carlo Conti, sì, siete stati nella stessa scuola da bambini. C'erano altri bambini di colore in classe? Io adesso mi alzo e ti ammazzo. Scusa, posso leggere altre domande? Non ami così tanto il cinema, non ce la fai proprio a trattenerti dal fare un altro film? Bellissima, questa è una domanda fantastica. Mi spacco questa brocca, no, ti giuro. No, è la scaletta, Fausto, è la scaletta. Ma ti facevi Cesaroni, cioè voglio dire. Si chiama Auditel. Il tuo primo progetto è stato un bagno di sangue. Hai fatto tutto bene te invece. Ma che cazzo l'ho fatto? Ma questo talento comico di Matteo Branciamore, Zach Galifianakis italiano, come l'avete... Parliamo di un mostro. Abbiamo sempre saputo e abbiamo fatto in modo che lui lo tirasse fuori, lo facesse vedere al pubblico. Questo è Drive, poter fare cose che non ci permetterebbero di fare in altri contesti, vuoi perché troppo costose, vuoi perché troppo rischiose. Noi andavamo invece a fare magari cene, serie, Nicolas, incontri importanti, ci annoiavamo, ci ho detto, vogliamo portare uno che rallegra un pochino. No, ma a parte gli scherzi, Matteo ha una vena comica che andava semplicemente, ecco, esattamente questo, non gli è mai stata forse data la possibilità di tirar fuori questa sua vena, perché poi incastrato per carità nei Cesaroni, dove magari era il personaggio timido, introverso e tutto, Matteo diceva: ma io non ria, io devo fare qualcosa, io devo tirar fuori. Tu, piove, ecco, sembra scritto su di te. Piove sarebbe bello poterlo portare anche nella TV tradizionale in qualche modo, non solo in rete. Infatti ci stiamo lavorando, non ti diamo un'anteprima perché non c'è niente di concreto, possiamo, ancora non possiamo, però no, esattamente è vero quello che dicono loro. Grazie a te per il Galifianakis, perché per Galifianakis, però no, esattamente quello che dicevano loro, che è un po' un problema di tanti attori italiani, no? Noi abbiamo questa cosa che rimaniamo chi fa le serie o chi fa dei film particolari incastrati un po' nei cliché, nei personaggi, e quindi la prova è esattamente quella, cioè andare un po' oltre le apparenze. Cioè dire: ma come, tu fai, hai fatto sempre il timido e mo fai fare... È bello, fanno, se sei attore in teoria dovresti fare quello. Però alla fine cosa pensate del fatto che quando arrivate c'è sto tsunami di ormone femminile? Perché io sono rimasta travolta dall'ormone delle ragazze dai 18 ai 60. Con un foglietto in mano, cioè... Sì, gli autografi. Cosa ne pensate? Che fa piacere, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto finora ha funzionato come attori. Guarda, mi viene in mente una cosa che mi disse Giorgio Faletti. al suo tempo mi disse: soldi e complimenti non si rifiutano mai, però lì dove i complimenti sono legati a ciò che abbiamo fatto non vuol dire che non possiamo proporre altre cose. È ovvio che fa strapiacere avere questo tipo di impatto con il pubblico, perché è un feedback che ti danno per quello che abbiamo realizzato. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Piove. Sono Matteo Branciamore e ho l'onore di avere qui con noi un ospite internazionale, l'attore greco Nicolas Vaporidis. Nicolas, grazie Matteo, buonasera. Ciao. E dopo tante esperienze davanti alla macchina da presa, hai deciso di fare il grande salto come produttore. Vero. Il tuo primo progetto, fortemente voluto, tutto l'amore del mondo, è stato un bagno di sangue, una carneficina, un olocausto produttivo. Sì, vabbè. Uno dei tuoi ultimi lavori è a teatro. Sì, però... Ecco, volevo chiederti, ecco, è lì che si finisce quando si chiude col cinema? Intanto per la prossima stagione Nicolas e Primo stanno girando La ragazza dei miei sogni. Si può già sapere qualcosa? Il film è di Saverio Di Biagio, regista opera seconda, ed è un fantasy, quindi anche quella è una scommessa. È stata una bellissima esperienza, la seconda volta che io e lui lavoravamo insieme, e è un film a cui noi teniamo particolarmente, ci abbiamo creduto come attori e coraggio anche produttivamente di raccontare questa storia, perché non, se, poi ora l'ha fatto Salvatore, spero, e l'avrà fatto con dei mezzi sicuramente imponenti, però è proprio un sono dei film che non, cioè sono degli argomenti, il fantasy, che non hanno, in Italia non si ha il coraggio. In Italia secondo me manca il coraggio fondamentalmente, un po' da tutte le parti. Quindi quando è arrivata la proposta di questo film, l'abbiamo letta, ho detto: oh, ma lo sai che abbiamo, ci siamo chiamati, oh, ma lo sai, a me sta storia mi piace. E dice: esatto. Ma sì, ma pure a me, infatti, la vogliamo fare? Buttiamo. Tanto voglio dire, stare lì a casa fermi a dire no, questo no, ho paura che diranno, che oddio, mi sfondano. No, dai, famolo, facciamo. L'abbiamo fatto. Siamo partiti dall'idea: ma tu questo film lo andresti a vedere? Io sì. Lui pure, beh, allora facciamolo. Ma è vero, perché è andiamo a vedere. Proprio, ci siamo chiamati, sì, sì. Tu. Sì, sì, me la ricordo la telefonata. L'idea è non fare più cose che tu per primo non andresti a vedere, quindi non fare più la famosa marchetta, quindi accontentare il sistema e il mercato, dove poi voi vi lamentate che facciamo sempre le stesse robe e tutti quanti continuiamo a lamentarci. Allora usiamo, poi magari faremo, ma magari non esce quello che abbiamo pensato noi, può darsi. Però ci abbiamo provato e siamo molto affezionati al film, decisamente. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena da Marta Cagnola. Ancora un saluto, ma ci risentiamo tra pochissimo con RadioTube.